Italia in controluce. Buongiorno, oggi è il 12 novembre, Italia in controluce, la cronaca, racconto, la narrazione sulle storie italiane. Buongiorno da Daniele Biacchessi. La cultura è come l'acqua, i teatri, gli auditorium, i cinema sono i suoi acquedotti. Ma la cultura in Italia viene vista come una sorta di optional, non come la bandiera di un paese, la sua identità. E allora oggi Federculture, FAI, ANCI hanno organizzato un'iniziativa nazionale. Saranno chiuse le porte dei musei per protestare contro i tagli in finanziaria. Lo speciale di Radio 24, firmato da Adriana Fracchia. La cultura arricchisce sempre. La cultura permette di superare tutti i limiti. La cultura è contro la volgarità e permette di distinguere tra bene e male. La cultura è lo strumento per giudicare anche chi ci governa. La cultura è libertà di espressione e di parola. La cultura salva. Con la cultura si sconfigge il disagio sociale delle persone. E praticamente la cultura è il riscatto dalla povertà. La cultura è far sì che i nostri figli e i nipoti possano andare un giorno a teatro per poter vivere la magia della musica. La cultura è un bene comune primario come l'acqua. I teatri, forse, le biblioteche, i musei, i cinema sono come tanti acquedotti. La cultura è come la vita e la vita è bella. Con queste parole il maestro Claudio Abbado, ospite della trasmissione Vieni via con me di Fabio Fazio su Rai 3, ha voluto elencare i motivi per cui vale la pena difendere la cultura. Un fatto ancor più necessario, soprattutto alla luce dei recenti tagli previsti dalla finanziaria. Lo Stato italiano spende in cultura lo 0,21% del proprio bilancio e il bilancio del Ministero dei Beni Culturali negli ultimi 5 anni è diminuito di oltre il 22%, passando da 2.201 milioni di euro del 2005 a 1.710 nel 2010. Per il prossimo anno lo stanziamento del Ministero scenderà ulteriormente a circa 1.429 milioni di euro. A ciò va aggiunto che la recente manovra finanziaria limita drasticamente anche per i comuni e le regioni gli investimenti culturali. Per questo Federculture, l'Associazione Nazionale dei Comuni e il FAI hanno indetto per oggi una mobilitazione nazionale che prevede una serrata di musei, siti archeologici, biblioteche e luoghi della cultura contro il provvedimento anticrisi del governo. Lo slogan della protesta recita così: porte chiuse, luci accese sulla cultura. Il presidente di Federculture è Roberto Grossi. L'Italia è il paese della cultura e del paesaggio. Guai, in una prospettiva soprattutto di sviluppo, di rilancio dell'economia, rinunciare a questo settore che comunque vale rispetto al PIL oltre il 2,5%. Se noi spegniamo le luci al settore della cultura, che ti apre il cervello, che ti stimola il cuore, l'anima, ti apre la curiosità, la voglia di confrontarti, di capire. Se manca questo, cosa rimane? Un paese che diventa sempre meno civile. Alla protesta, come abbiamo detto, ha aderito anche il FAI, l'amministratore delegato culturale del FAI, Marco Magnifico. È un'iniziativa drammatica, è un gesto che non si è mai sentito, è qualcosa che non è mai successo ed è qualcosa che deve far riflettere gli italiani, ma soprattutto chi ci governa, su che cosa sarebbe il nostro paese senza i musei, senza la cultura, senza quei monumenti che sono l'identità stessa del nostro paese. Ridurre dell'80% i fondi già inesistenti vuol dire uccidere le iniziative culturali. Il nostro appello non è un appello, è un urlo. Rendetevi conto che siamo l'Italia perché abbiamo quel patrimonio. Quel patrimonio non è la ciliegina sulla torta, è la torta del nostro paese. In controtendenza il comune di Milano, dove l'assessore alla cultura Massimiliano Finazzer Flori ha invece deciso di tenere aperti oggi a titolo gratuito tutti i musei cittadini. La nostra è una controtendenza, ma non è una contraddizione. Aderisco anch'io a questa mobilitazione, tuttavia il mio è uno sciopero giapponese. Non chiudo i musei civici, ma al contrario li tengo aperti, ma tuttavia non vi sarà biglietto. Si entra gratuiti, una sorta di suicidio assistito si potrebbe dire. Ma insomma, Milano, che non riceve quasi nulla dallo Stato centrale in termini di finanziamenti economici e finanziari, non solo chiede di fare da sola, ma chiede soprattutto allo Stato di tirarsi indietro con sburocratizzazione, con una riforma fiscale per facilitare l'ingresso delle imprese all'interno del territorio della cultura e poi con un nuovo diverso rapporto sul territorio. Si tratta insomma di riapplicare il principio della sussidiarietà del federalismo culturale e al tempo stesso di riconoscere anche in campo culturale più meritocrazia e meno burocrazia. Secondo i più aggiornati dati Istat, la spesa per la cultura delle famiglie italiane è rimasta sostanzialmente stabile anche negli ultimi 2 anni di crisi. Nel 2009 tutti i segmenti hanno registrato valori in positivo, dal teatro che registra un aumento di spesa del 4,8% alla lirica più 6%, per le mostre si parla addirittura di un più 42,5%. Da uno studio di Stegiap, azienda bolognese specializzata in marketing, media e comunicazione, se l'Italia investisse in cultura, come fanno Francia, Gran Bretagna, Germania e Spagna, potrebbe avere un ritorno sul PIL superiore ad ogni altro paese europeo, raggiungendo un indotto pari a 140 miliardi di euro. Il presidente di Stegiap, Giovanni Palazzi. Investire in cultura e soprattutto rendersi conto che la cultura può essere una miniera di diamanti per l'Italia. Investire in cultura sarà anche il tema di un convegno organizzato nei prossimi giorni nell'ambito della nona edizione della Settimana della Cultura d'Impresa, che cade tra l'altro in occasione del centenario di Confindustria. Alessandro Laterza, presidente della Commissione Cultura di Confindustria. Questo è un settore di particolare interesse che Confindustria sta analizzando. Noi abbiamo circa 300 fondazioni di imprese in Italia che fanno un'attività intensa alla quale noi vorremmo dare innanzitutto visibilità per dare più forza, no? Per fare pubblicità e soprattutto qualificare gli interventi sulla base dell'idea che le fondazioni di impresa, ma più in generale gli imprenditori, non devono fare esercizio di mecenatismo in termini di dazioni di denaro, ma devono avere un impegno forte e chiaro sulla base di progetti che in qualche maniera riconoscono come rilevanti dal punto di vista del sistema. Il mecenatismo, insomma, consiste nel fatto di avere un'idea, di cercare di portarla avanti e di svilupparla. Questo è il valore aggiunto che possono dare le imprese, che ovviamente non possono sostituire nel modo più assoluto la mano pubblica. Dello stesso parere Giovanni Gentile, presidente di Confindustria Firenze e ideatore di Florence 2010, prima edizione della Settimana dei Beni Culturali e Ambientali che inizia oggi a Firenze e che darà vita nei prossimi giorni ad un forum internazionale, una sorta di Davos per arte e cultura. Pensiamo che con la cultura si può mangiare, tra virgolette, e come? Cioè, io dico anche soltanto questo, abbiamo avuto una crisi che non è una crisi congiunturale, è una crisi epocale. Se è vero, come io ritengo che sia vero, che da questa crisi usciremo certamente molto diversi da come ci siamo entrati, e già c'eravamo entrati in una situazione difficile rispetto ad altri paesi, anche europei, come sappiamo bene, ma certamente ne usciremo molto diversi. Molto diversi vuol dire che ne uscirà un tipo di struttura produttiva del nostro paese che avrà caratteristiche, io credo, abbastanza diverse da quelle che eravamo abituate a vedere, e probabilmente vinceranno le aziende che sapranno innovare, sapranno trovare nuovi prodotti, nuovi modi di produrre, nuovi modi di vendere, nuovi mercati, eccetera. Ma anche forse credo che se ne possa uscire meglio se si riesce a coniugare bene l'economia con la cultura, che non vuol dire sfruttarli, vuol dire valorizzarli, anzi il contrario, senza pensare a far venire meno le ragioni della tutela. Credo che intorno a queste tematiche, se opportunamente viste in una luce, in un'ottica diversa, si possa creare anche una nuova economia. Infatti noi l'abbiamo chiamata una golden economy, golden in quanto tocca delle aree molto nobili e soprattutto certamente non inquina, anzi casomai tutela anche il paesaggio e l'ambiente, che è uno dei nostri principali beni culturali. Francesca Grassi, figlia del grande uomo di teatro Paolo Grassi, fondatore del Piccolo Teatro di Milano insieme a Giorgio Streller, propone una serrata di protesta anche per i teatri. Anche i teatri dovrebbero chiudere, come fanno i musei. Probabilmente forse sarebbe un altro tipo di ascolto. I teatri lirici, i teatri di prosa, perché no? C'è bisogno di far capire che siamo un paese di respiro culturale così profondo, così poco aiutato, così poco ascoltato. Siamo un paese di sordi. Infine il commento del critico d'arte Achille Bonitoliva. La cultura, le mostre, le esposizioni, gli eventi culturali producono anche degli indotti economici, ma a parte questo la cultura non serve per sopravvivere, ma per vivere, per farci riflettere, per farci conoscere, e i musei sono quei luoghi che custodiscono opere storiche che vengono da lontane e testimonianze del nostro presente. Quindi diciamo che il museo è una sorta di laboratorio che ci permette di avere un rapporto col mondo, con la realtà che ci circonda, un rapporto che viene rafforzato dall'arte, perché l'arte scavalca il presente e cavalca il futuro. L'arte ci indica delle prospettive in un momento storico in cui sembra che il presente segni il passo. Dunque va detto che è una manifestazione di estrema civiltà, di buonsenso, che non va, diciamo, in qualche modo né letta da sinistra e nemmeno da destra. Dunque è veramente una chiamata alle armi di tutte le persone più consapevoli in un paese che non riesce a fare dell'arte, della cultura, un bene primario e direi anche una materia prima. Termina qui la seconda edizione di Italia in Controluce. Vi ricordo radio24.it, il nostro gruppo Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, in Controluce su Twitter, la mail controluce@radio24.it. Peter Bescapè ha curato il montaggio e l'editing di questa trasmissione. Torniamo lunedì 15 novembre alle 6:30 su Radio 24 con altre storie.